Cominciamo l'atteso incontro con Massimo Fangioli. Una brevissima scheda di presentazione. Massimo Fangioli si è laureato a Roma in medicina, specializzatosi in neuropsichiatria, ha lavorato negli ospedali psichiatrici di Venezia e di Padova e poi nella clinica di Binswanger a Zurigo. Dopo una lunga analisi personale e 10 anni di esperienza di analisi individuale, propose nel 71 agli ambienti psicoanalitici un primo lavoro, Istinto di morte e conoscenza, presto seguito da altri due. La Marinetta e il Burattino, che del 74, Psicoanalisi della nascita e castrazione umana, e del 75. A causa della critica a Freud contenuta in questi libri, critica serratissima, l'autore è stato espulso dalla International Psychoanalytic Association. Nel settembre del 75 Massimo Fangioli ha cominciato a tenere a Roma dei seminari pubblici e gratuiti che, frequentati attualmente da moltissime persone, svolgono una vera e propria analisi collettiva fondata sulla teoria esposta nei libri. Intorno a questi seminari di libri si è aperto in Italia un dibattito, le cui voci sono varie ed articolate. La maggior parte di queste, come mi è risultato, essendomi un minimo documentato prima di introdurre Massimo Fangioli in questa breve conversazione di Radio Blu, dicevo, la maggior parte di questi interventi sono fortemente critici, contengono delle accuse gravi e anche molto grevi, direi, nei confronti delle tematiche che Massimo Fangioli ha trattato nei suoi libri. La curiosità che a me da ciò è derivato di appurare cosa esiste al di là e al di sotto di queste accuse deriva dal fatto che la maggior parte di questi interventi non hanno, a me almeno, non hanno dato l'impressione di possedere delle motivazioni teoriche plausibili, si sono limitate la maggior parte ad una serie reiterata di attacchi violenti ai limiti alcuni del torpiloquio, senza avere mai dato adito a uno scandaglio effettivo della teoria di Massimo Fangioli, tant'è che il primo intervento di taglio scientifico che è stato pubblicato è del giugno del 79 e si tratta delle malie della strega di Poggiavi, pubblicato su Psicoterapia e Scienze Umane. Da allora il silenzio, o meglio il vociferare multiforme di articoli e di pubblicazioni che Massimo Fangioli ha dovuto sopportare finora e che contro Massimo Fangioli lanciavano preliminarmente questa accusa. Massimo Fangioli è il padrone del discorso, cito tra l'altro il titolo di un articolo che mi sembra è uscito qualche tempo fa sul Messaggero, è il demiurgo, il guru che accanto a sé, attorno a sé, fa nascere, fa sorgere questa selva, questa fungaia di persone disperate alla ricerca di una parola risolutiva dei propri problemi e delle proprie complicazioni esistenziali, è stato coniato anche un termine, un neologismo. La maggior parte di queste persone sono massimo dipendenti, cioè sono intossicate tanto della presenza di Massimo Fangioli da essere incapaci, presumo che questo è l'intendimento linguistico sotteso a questo termine, di essere capaci di liberarsi non solo adesso della presenza di Massimo Fangioli, quindi della terapia psicoanalitica che lui propone, ma indefinitivamente da qui fino a chissà quando. Cioè si propone in pratica un legame indefinito tra questi 2000, perché tanti ormai mi sembra che sono giovani e meno giovani che seguono i seminari di Massimo Fangioli, e la sua persona. La persona di Massimo Fangioli, quella che abbiamo appunto qui fisicamente presente negli studi di Radio Blu, chiederei a lui, prima di ogni altra cosa, se ritiene giusto il discorso che è stato fatto da qualche parte, che nel momento in cui la situazione esistenziale dei giovani che escono, vengono da una pratica politica sessantottesca e post-sessantottesca, si scontra con l'impossibilità del reale di essere manovrato, manipolato dagli schemi politici tradizionali. Questo comporta un cosiddetto riflusso nell'individuale, nel personale, nel privato, che porta a sua volta come consentanea presenza la necessità di ricorrere alla terapia psicanalitica, cioè il rifuggire in pratica nella psicanalisi è il riscontro di un fallimento dei tentativi di manovrare la realtà in termini politici. Esiste questa inconciliabilità o questo iato, questa frattura tra l'uno e l'altro settore della realtà? È la prima domanda che io rivolgo a Massimo Fangioli. Beh, che esista è una situazione di possibilità di rendersi conto che c'è un'insufficienza, un'inadeguatezza della risposta politica tradizionale alle molte domande che giovani e non giovani, come giustamente è stato detto, fanno, ma io penso hanno sempre fatto. Beh, questo credo che sia assolutamente accettabile. E perché, per come, dirlo adesso immediatamente forse non è opportuno, credo che possiamo riferirsi all'inizio della presentazione, cioè l'osservazione chiara che, al di là degli insulti, degli epiteti, una critica documentata alla teoria non c'è mai stata. E non c'è mai stata, e parliamo ormai di 9 anni, non è un fenomeno transitorio, di distrazione, eccetera. Per ben 9 anni ancora non c'è una critica documentata, giustamente la prima comparsa è quella del luglio del 79, a cui poi questa volta ho adeguatamente risposto, alle altre cose ovviamente non rispondo. All'insulto per strada, al pomodoro marcio, io non rispondo. Questa è la ragione per cui io non rispondo mai al messaggero, non rispondo mai a quella che chiamo una ragazzuola, che è una Stefania Rossini, che perché richiedo che ci sia una base di serietà e di discussione tra tutte le critiche che vuole e me le deve fare, però su una base di serietà e di impostazione. Ma evidentemente, appunto, il discorso può partire proprio da questo. Tutto si è mosso con il primo volume, con la teoria. Potrebbe sembrare strano a una visione immediata, sarebbe una situazione di bisogno immediato di giovani e non giovani di essere aiutati a risolvere i propri problemi di angoscia, di impotenza, di depressione, di difficoltà varie personali che sono estremamente diffuse, come tutti sanno, però non si spiega perché, esistendo ufficialmente una psichiatria, un'analisi, una filosofia, una sociologia, seminari a non finire da tutte le parti, questo fenomeno non si sia mai verificato. Come non credo che possa essere presa in considerazione la mia presenza fisica. Come particolare, dopo vediamo quella storia del guru, individuo fascinoso, credo di essere fascinoso proprio per niente, e per cui raccoglie tutte queste persone. E allora bisogna fare un'ipotesi di lavoro, che la gente è più attenta di quello che sembra in apparenza. La gente, evidentemente, bisogna dedurne o ipotizzare come ricerca, non la do come certezza scientifica, ma come ricerca, sì, che quando c'è una comunicazione teorica o scientifica precisa, la gente sta attenta e la sente. Motivo per cui la gente è venuta ai seminari è perché io ho scritto 3 libri. È venuta con tutte le ambivalenze possibili e immaginabili, come sempre accade, e in qualsiasi situazione di analisi, normalissima, però è venuta. Ed è venuta, ripeto, di sua spontanea volontà. Io non ho organizzato mai niente. Io, appunto, ero andato a Villa Massimo a fare una privata supervisione a una quindicina, una ventina di colleghi analisti, vista la mia esperienza. Il professor professore dell'università ha detto vieni a fare qualche seminario di supervisione agli analisti, visto che tu sei stato in Svizzera, hai fatto questo, hai fatto quest'altro, eccetera, eccetera. E così si è svolta per la prima settimana. Dopo un po' di settimane e la stanza si è cominciata a riempire. Da riempirsi la prima stanza ho dovuto fare un secondo, un quarto seminario e la stanza si è riempita sempre di più. Evidentemente questa è la conferma che esiste questa tensione da parte delle persone nei riguardi di messaggi. È scientifico. Allora qui c'è qualcosa rispetto alla politica tradizionale. Criticabile o non criticabile, ma criticare la situazione significa criticare queste centinaia e centinaia e migliaia di persone che vengono. Qui è una situazione che ha una base, io dico sempre, di validità, più o meno criticabile, discutibile, come sempre si deve fare in qualsiasi proposizione scientifica, oppure qui sono venuti fuori migliaia di matti che vengono, non si sa bene da chi, non si sa bene dove. E allora cominciamo un po' con la teoria, anche perché possiamo dedurre proprio da questo fenomeno del guru e del non guru che tocca una situazione particolare, cioè la situazione della scoperta specifica, il discorso dell'intento di morte, il discorso è partito proprio, uno, con la denuncia dell'assenza dell'analista, e l'assenza dell'analista significa l'assenza della psicanalisi, di 70 anni di psicanalisi, nonostante che si dichiarasse ufficialmente presente. E l'assenza che si dichiara ufficialmente presente, ma in verità non c'è, è la situazione più dannosa e più distrattiva che possa esistere. Meglio che non ci sia ufficialmente, perché è quella la situazione di inganno di più. Evidentemente, queste cose le persone le percepiscono. C'è una domanda, io facevo esempio, ricavavo queste osservazioni come qualsiasi cittadino di quella famosa manifestazione a Bologna, mi pare che sia del 77, del settembre del 77, in cui andarono 40-50 mila giovani che non chiedevano immediatamente il posto di lavoro, che non era una manifestazione sindacale per l'aumento dello stipendio o per la disoccupazione. Allora, decine di migliaia di persone, cosa chiedevano? Chiedevano risposte. L'avevano in particolare con l'università e con una certa cultura dominante. E la cultura dominante, lasciando stare l'università con tutto l'aspetto tecnico che ci può essere di ingegneria, architettura, su quale situazione io non intervengo minimamente, posso intervenire, ma come situazione di cultura dominante, di formazione delle persone, di formazione dei giovani. E qui il discorso si potrebbe estendere molto, vediamo se in base alle domande possiamo estenderlo, perché è molto ampio, ma io sono convinto che un cardine della cultura dominante è proprio il freudismo. Adesso non vorrei andare direttamente alle situazioni storico-culturali e magari anche politiche, magari, ripeto, ci possiamo arrivare più gradualmente. Mettiamo appunto questa cosa qui. Il guru va a negare proprio il cardine della scoperta analitica, che è la cura dell'alienazione religiosa umana. E da cui parte la scoperta. La negazione più grossa, anche se più grossolana, è proprio questa. Se c'è un'impostazione in cui non si può parlare di religiosità è proprio questa, perché denuncia innanzitutto, prima di tutto, l'alienazione religiosa, la fabbrica di dei, in piccolo e in grande, e quindi la denuncia di qualsiasi situazione di ruolo, perché gratta gratta, nella situazione di ruolo c'è un'alienazione religiosa. E qui, certo, potrei raccontare tante cose di una metodologia di lavoro come noi siamo riusciti a portare Hegel a livello nostro, di raccontarci che un certo Federico raccontava questo, come se ce lo avesse raccontato un droghiere, un falegname. C'è la distruzione del ruolo, la distruzione dell'idealizzazione. Ciò che impedisce agli esseri umani di essere, di realizzarsi, di vedere, di capire. E magari, appunto, di essere felici. È l'idealizzazione di alcuni cosiddetti maestri di scienza e di cultura, che dominano completamente situazioni di secoli, direi, perché siamo convinti che noi siamo ancora schiavi di un ego, della prima reazione repressiva alla rivoluzione francese. In quell'epoca era successa una certa rivoluzione francese, la quale per prima rivendicava una certa realtà materiale rispetto al Medioevo. In quella realtà materiale umana era completamente annullata. Però la rivendicazione della realtà materiale borghese è dissociata, è masturbatoria. E immediatamente c'è stata la reazione con un Hegel che diceva che la realtà materiale era negazione. E quindi bisognava fare l'annullamento di questa negazione, cioè ripristinare la situazione del Medioevo, del potere supremo. È risaputo che a questo Hegel si è opposto a Marx, riuscendo a dare agli esseri umani un'altra proposizione di realtà materiale, che è la realtà materiale del lavoro, l'attività della mano umana, la costruzione, non più la masturbazione, l'homo homini lupus, per cui si trattava di lasciare liberi i più furbi, chi riusciva a fregare più il prossimo, come accade nella situazione masturbatoria. Allora emergeva nella società borghese, come è noto, che così accade. No, si trattava di rivendicare quella realtà materiale che costruisse, che facesse lavorare le mani umane. A questa seconda, la realtà materiale rivendicata, si oppone proprio Freud, con una situazione particolarmente abile, nel senso di fare un lavoro di approfondimento della realtà umana, nel senso di studiare la realtà psichica che Marx aveva trascurato. Marx aveva idealizzato la realtà materiale, e noi lo sappiamo benissimo perché ci stiamo vivendo in pieno quella famosa formulazione che basta che siano risolti i rapporti di produzione, poi tutto il resto sarebbe caduto da solo. Noi più bravi di Marx, in quanto abbiamo 100 anni di storia, sappiamo che non è affatto vero. I paesi dell'est stanno in questa situazione, devono mantenere una situazione repressiva. E in particolare c'è quel fenomeno specifico che possiamo utilizzare proprio della malattia mentale. Loro hanno una coerenza precisa. Nel momento in cui abbiamo messo a posto tutte le cose, non ci possono essere più malattie mentali, sofferenze psichiche. Perché? Perché secondo la teoria di Marx è così. Risolte tutte le situazioni di sfruttamento fisico dell'uomo sull'uomo, l'uomo deve essere felice. Poi non è felice, e come sta facendo? Ha un'alterazione organica del cervello, non ha una malattia psichica. Preciso, Perché se avesse una malattia psichica, verrebbe a crollare la coerenza del discorso. Ha un'alterazione organica. Quindi come dire che uno è andato a sbattere al muro con la testa, gli si è rotto un po' il cervello, e quindi dai numeri, dice cose strane. Nulla da eccepire. Difatti la psichiatria dell'est si distingue per essere la più organicista possibile. Perché corrisponde a questo. Ora si tratterebbe di fare il passo avanti alla terza realtà materiale. E nella seconda metà dell'Ottocento c'era questa prima proposizione di possibilità che l'uomo, partendo dal marxismo, potesse ampliare, approfondire, sviluppare la scoperta e la rivendicazione di Marx, portarla a fondo, in modo da farne una realizzazione umana la più completa possibile. E a questo, dicevo, invece si è opposto Freud. La formula che mi viene sempre chiesta è perché io parlo di serpente che si è accoppiato alla donna. Freud è il serpente. È il serpente che si accoppia a questa donna che io dico, seppur vergine frigida, è sempre una possibilità. In modo da stroncare qualsiasi possibilità che venisse fuori. I serpenti sono abilissimi, vedono subito le possibilità e cercano di stroncare le possibilità al loro nascere. Perché stanno benissimo. E nel momento in cui si siano sviluppati, si è diventato adulto, è ben difficile distruggere. E lì viene tutta la teoria freudiana. Adesso, se vogliamo toccare i punti teorici specifici. Ma guarda, io direi questo, anche se in pratica hai implicitamente già risposto alla domanda che io ti porrò, vorrei che invece tu la rendessi più esplicita. La domanda che io ti pongo è questa. Finora la psicanalisi, è stato detto, era uno strumento al servizio della borghesia, era uno strumento di potere. Tu ventili invece la possibilità che la psicanalisi sia uno strumento rivoluzionario. Vorrei che il più esplicitamente possibile tu rispondessi a questa mia domanda. In che termini può essere rivoluzionario? Ma prima, proprio la situazione che è la situazione più repressiva possibile, perché io dico sempre, non c'è situazione più repressiva del terrorismo psichico. La codificazione di un inconscio perverso, originariamente e fondamentalmente perverso, significa automaticamente che qualsiasi persona potesse riconquistare all'uomo la propria realtà psichica, significa che fa venire fuori mostri, assassini e cannibali. E quindi la cosiddetta psicanalisi serve per fare in modo che questo cosiddetto inconscio, questa cosiddetta realtà psichica, venga maggiormente controllata e possibilmente annullata completamente. Perché una volta scoperto che è la situazione più distruttiva possibile negli esseri umani, come dice il caro Freud, tutti i compiti della società, della scienza, dei psicanalisti, dei psichiatri devono essere fatti. Imprigionare, controllare, possibilmente annullare questa realtà. Viene di conseguenza. Se l'inconscio è fondamentalmente e originariamente perverso, ma ovviamente controllato, possibilmente eliminato. Beh, mi pare assolutamente ovvio. Quindi è il freudismo è la situazione più repressiva possibile. Io dico, fa più freudismo che un esercito di poliziotti. Perché va a colpire proprio la situazione intima della situazione degli esseri umani, il terrorismo spicciolo di tutti i giorni. Per cui se una persona si alzare da uscire di sera e prendersi una libertà sessuale, anche se sfugge al pettegolezzo del coinquilini o alla repressione dei genitori, poi non sfugge all'angoscia di aver fatto chissà quale delitto per questa ideologia dominante. E poi magari, dopo averlo fatto, gli viene una crisi depressiva e gli viene l'angoscia. Nel momento in cui, invece, si fa una scienza della realtà psichica per quella che è, e quindi per un verso si riprende il discorso di Marx, criticandolo, rifiutando le cose che non vanno, prendendo le cose che vanno, si imposta una dialettica. Per questo il cardine importante dell'analisi è dialettica. Nel freudismo non esiste questo discorso. Freud dice, era completamente dimenticato, poverino, che era esistito un Socrate, che era esistito un Hegel, che era esistito un Marx, che parlavano di dialettica. Per cui nella psicanalisi la dialettica non esiste. Invece è il cardine di ogni situazione, di possibilità, di cura. Cioè il confronto tra aspetti contro aspetti. E allora nel momento in cui si prende questo si fa la dialettica contro l'istinto di morte, contro l'annullamento, contro tutte queste proposizioni ideologiche che accecano gli esseri umani, che impediscono agli esseri umani di vedere, di rendersi conto, di essere, di fare una ricerca, perché non hanno l'inconscio assolutamente perverso, l'inconscio perverso è storicamente determinato, non è originario e naturale. Allora emerge l'inconscio non perverso. E questa è l'impostazione di Marx, è precisa. Prima bisogna combattere contro la società, perché se poi ci sarà un comunismo ideale, sì, ma è inutile che andiamo a masturbarci sul comunismo ideale. Sarà quel che sarà. L'importante è la dialettica. Contro la società borghese. L'impostazione metodologica qui è esattissima. Prima la dialettica contro l'istinto di morte e la castrazione umana. Poi emerge la fantasia, la vitalità, il desiderio, la conoscenza, eccetera. Posso interromperti un attimo? Quindi è rivoluzionaria per questo. Nei paesi a cosiddetto socialismo reale, questa liberazione dell'uomo, dei suoi presupposti di bontà originaria, non mi sembra che si sia realizzata. Esattissimo. Qual è stato l'ostacolo a che ciò si verificasse? Questo che sto dicendo. Seguendo pedisseguamente Marx, ci si limita a una dialettica contro l'oppressione fisica, non contro l'oppressione ideologica. Cioè, quella formulazione di Marx precisa quando litigò con i giovani hegeliani. È lì che sbagliò Marx. Portando tutto al livello della dialettica fisica, la critica delle armi. E alla sua realtà storica. È quello che è. C'è una storia dell'Ottocento, c'è una rivoluzione russa, c'è una rivoluzione cinese. Ci sono movimenti vari. Di rivendicazione, appunto, del marxismo, del leninismo, dall'Angola al Mozambico e così via dicendo. E sta bene. Quella è una realtà storica che è andata in quel modo e nessuno può modificare la storia. Il guaio è quando noi ripetiamo la storia, come se fossimo ancora a 60 anni fa. A 70 anni fa. Bisogna ampliare il discorso del rapporto con la realtà umana, togliendoci questa idealizzazione della realtà materiale. Io credo che sia assolutamente notorio ormai che una situazione operaia che pur ha raggiunto una situazione di benessere fisico, di sufficienza, di soddisfazione dei bisogni, non è realizzata per niente. Qui c'è l'altro cardine scientifico preciso. L'uomo non è fatto soltanto di bisogni. L'uomo è fatto di esigenze. È ovvio che deve soddisfare i bisogni, se no muore di fame, di freddo, quindi non si parla di psicanalisi. Questo mi pare assurdo. Ma appena completata la situazione della soddisfazione fondamentale dei bisogni, 20 gradi di temperatura, quel certo tot numero di vestiti, quella casa, quella cosa, passare immediatamente alla ricerca sulla vera realizzazione degli esseri umani, che è il rapporto interumano. È ricerca nell'ambito del rapporto interumano, è situazione di realizzazione nell'ambito di questo rapporto. È sessualità non intesa come scarica, è bisogno. In questo senso continua, approfondisce, supera la situazione della dialettica marxista specifica, perché se no è un guaio grosso, perché si va a finire a mantenere una situazione di dialettica fisica e allora vengono fuori le critiche delle armi. Ecco, passiamo ai casi di casa nostra. Il marxismo nostrano è stato finora accusato di rimuovere continuamente dal proprio ambito la tematica non già dei bisogni ma delle esigenze, secondo appunto la distinzione che tu mi hai testé proposto. Mi sembra però di poter vedere da qualche parte che uno spiraglio si sta aprendo all'interno dell'ortodossia marxista, nel modo con cui cioè alcuni temi vengono proposti soprattutto alle nuove generazioni, intendo dire un recupero anche ufficiale di alcune tematiche come una diversa sessualità, come un diverso modo di proporre i rapporti interpersonali e intersessuali. Perfetto. Una diversa quindi figura e ruolo che la donna può offrire e proporre di sé nella realtà da costruire. Voglio dire, cioè, che mi sembra che qualche cosa si sta muovendo anche nel nostro ambito specifico, nella nostra sinistra tradizionale in Italia. L'ho osservato anch'io. E lo spero, e spero che si muovano ancora di più in questa apertura. E soltanto che non basta il muoversi, e poi bisogna avere le risposte. Non basta suscitare speranze e desideri negli altri. Poi bisogna avere una teoria e un metodo preciso per rispondere. Ormai io credo di poter dire di avere esperienza sufficiente. Sto completando il quinto atto di analisi collettiva, e in cui ho rapporto appunto insieme un centinaio di persone, e le persone vogliono risposte esatte. Voglio risposte precise. Vogliono coerenza. Non è affatto vero che una qualsiasi persona si possa permettere contraddizioni, incoerenze. Perché le persone più o meno intuitivamente, più o meno di traverso, chiede subito il rendiconto. Tu hai fatto così e così, perché hai fatto così e così? Mi devi rispondere. Se tu non rispondi con un discorso coerente, il rapporto si guasta, diventa più o meno sadomasochistico e poi si rompe. Ecco, mi sembra anche però che se è vero quello che tu dici, che c'è qualcosa che si sta muovendo, cosa che appunto notavo e che tu hai tra l'altro talvolta riscontrato, è vero anche che nella psicanalisi cosiddetta di sinistra, se non c'è nei tuoi confronti la versione che da varie fonti pubblicistiche abbiamo già riscontrato esserci, c'è comunque sicuramente nemmeno un appoggio, un avallo alle tue posizioni. C'è in ogni caso una frizione tra te e alcune posizioni ufficiali della psicanalisi marxiana o di derivazione marxiana. Perché si pone questo? C'è una frizione e non so, da parte di certi ambienti politici credo che ci sia cortese silenzio, diciamo così. Ma è perché sanno benissimo che loro vogliono fare l'accoppiata Freud-Marx. Vogliono fare l'accoppiata serpente-donna. E sanno benissimo che io mi oppongo a questo. Perché non c'è niente di peggio per distruggere quella possibilità di cui parlavo prima, che metterle insieme a Freud. Ma come si fa a non fare dei discorsi minimamente coerenti? Marxismo si batte per togliere qualsiasi situazione di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ma Freud lo codifica come normale. Ma come si fa a non sapere, non capire queste cose? Come si fa a non sapere che Freud scrive a chiare lettere che il marxismo è una pazzia di folli? L'ha scritto nel Disagio della Civiltà. A chiare lettere, perché non si legge un pochettino? E non è il Freud giovane, è il Freud del 1929, che dice a chiare lettere: i comunisti pensano che, quindi non c'è modo di equivocare in nulla. Bene, io non intervengo, dice il Freud, sul discorso economico perché non mi spetta, però posso dire che la natura umana è così perversa. Non è affatto vero che una qualsiasi persona si possa permettere contraddizioni, incoerenze. Perché le persone più o meno intuitivamente, più o meno di traverso, chiede subito il rendiconto. Tu hai fatto così e così, perché hai fatto così e così? Mi devi rispondere. Se tu non rispondi con un discorso coerente, il rapporto si guasta, diventa più o meno sadomasochistico e poi si rompe. Ecco, mi sembra anche però che se è vero quello che tu dici, che c'è qualcosa che si sta muovendo, cosa che appunto notavo e che tu hai tra l'altro talvolta riscontrato, è vero anche che nella psicanalisi cosiddetta di sinistra, se non c'è nei tuoi confronti la versione che da varie fonti pubblicistiche abbiamo già riscontrato esserci, c'è comunque sicuramente nemmeno un appoggio, un avallo alle tue posizioni. C'è in ogni caso una frizione tra te e alcune posizioni ufficiali della psicanalisi marxiana o di derivazione marxiana. Perché si pone questo? C'è una frizione e non so, da parte di certi ambienti politici credo che ci sia cortese silenzio, diciamo così. Ma è perché sanno benissimo che loro vogliono fare l'accoppiata Freud-Marx. Vogliono fare l'accoppiata serpente-donna. E sanno benissimo che io mi oppongo a questo. Perché non c'è niente di peggio per distruggere quella possibilità di cui parlavo prima, che metterle insieme a Freud. Ma come si fa a non fare dei discorsi minimamente coerenti? Marxismo si batte per togliere qualsiasi situazione di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ma Freud lo codifica come normale. Ma come si fa a non sapere, non capire queste cose? Come si fa a non sapere che Freud scrive a chiare lettere che il marxismo è una pazzia di folli? L'ha scritto nel Disagio della civiltà. A chiare lettere, perché non si legge un pochettino? E non è il Freud giovane, è il Freud del 1929. Che dice a chiare lettere, i comunisti pensano che... Quindi non c'è modo di equivocare in nulla. Bene, io non intervengo, dice il Freud, sul discorso economico perché non mi spetta. Però posso dire che la natura umana è così perversa che qualsiasi situazione per cui gli uomini si possono ritrovare tra di loro senza uccidersi reciprocamente è pura follia. Ma dice ancora qualche cosa di più. La situazione per cui certe comunità si possono ritrovare insieme soltanto a condizione che aggrediscano e distruggano altri. Questo è Sigmund Freud. Ho avuto modo di scrivere, quando uscirà, che questo è un passo che avrebbe pure, starebbe benissimo nel comizio di un gerarca fascista. Bene, il tempo purtroppo congiura contro di noi, è terribile dover interrompere qui questa nostra interessante conversazione, ma noi contiamo di riprenderla in un'occasione spero non remotissima con Massimo Fagioli. Abbiamo parlato oggi dei massimi sistemi, dell'impostazione teorica, della sua psicanalisi. In una prossima occasione speriamo di poter parlare anche dei livelli intermedi e anche dei livelli minimi di cui la sua impostazione teorica si sostanzia. Per oggi ringraziamo Massimo Fagioli presente in studio e gli ascoltatori che hanno durato finora. Buongiorno.